La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Preparate gli accendini, non perché voglio che voi fumiate, ma perché l'accendino è un elemento imprescindibile nei grandi concerti all'aperto. Almeno un tempo, quando si fumava, io non ho mai fumato, ma gli altri che fumano accendevano l'accendino appena partiva il pezzo lento. Adesso mi dicono che accendono i telefonini, cioè illuminano il display del telefonino e agitano questo telefonino, quindi vedete queste arene piene di persone che agitano il telefonino. Pensate come sono contente le società operatrici di servizi telefonici, perché dicono: ah, tutti i nostri clienti. Buongiorno, la bella estate, Tommaso Labranca. Oggi parliamo di concerti rock, perché l'estate è il momento dei concerti rock. Un tempo, oggi sono sempre meno quelli che riempiono gli stadi, ce n'è soltanto uno, ed è lui, Vasco. L'altra, tra un mi ritiro non mi ritiro, tra una lite con Morgan e l'altra, comunque Vasco va avanti e continua a riempire gli stadi. Ormai non canta neanche più lui, il pubblico canta al posto suo, lui sta lì impalato, li guarda e loro cantano. Naturalmente devo dirvi la verità, io non andrei mai a un concerto di Vasco Rossi, non per Vasco, ma proprio per l'atmosfera, troppa gente. Sapete, io sono anche sociofobico, non riesco a sopportare le persone. L'ultimo concerto al quale sono stato estivo, è capitato d'estate, è stato l'anno scorso e cantava lui. L'ascolterei tutta più volte, ma non posso. Colnitur. Lui è Jón Þór Birgisson, detto Jonsi, è il leader dei Sigur Rós, però ha anche una carriera adesso solista. Non eravamo moltissimi l'anno scorso, ma quello era il bello. Eravamo lì per lui e lui era lì per noi. Cantava ed era lì, era vivo, lo vedevi da vicino. Ah, che meraviglia, è stato bellissimo. Oggi parliamo di concerti, quindi 800 24 0024. Se eravate al concerto di Jonsi, fatemelo sapere. Se invece siete stati al concerto di Vasco, fatemelo sapere. Avete avuto disavventure ai concerti, fatemelo sapere. Avete visto un grande cantante rock che camminava per strada, fatemelo sapere. 800 24 0024. Però i divi del rock passano e vanno. Oggi Vasco è rimasto, ma quanti sono scomparsi? Vabbè, si dice sì, io ho visto i Beatles, ma io no, non ho visto i Beatles. Si dice ho visto i Beatles, e quelli che hanno visto i Duran Duran, e i Duran Duran oggi sì, cantano, però non sono più quelli di una volta, eppure avevano un tempo delle fan sfegatate. Ed ecco Simon Le Bon. Diglielo, grazie, grazie per tutto quello che ci danno, diglielo, ti prego. Davvero? Sì, grazie. Allora tu, aiutala a scendere, vieni. Per la Sardegna vengo. Stupendo, succede, bellissimo. È stato stupendo, Red, specialmente Simon, lui è unico. Amo Simon, lo amo. Stai calma, Rossa. Dove stai, sarai, calma, Rossa, oggi? Sarai a casa a picchiare tua figlia perché vuole andare a vedere Justin Bieber? No, vergogna. Per fortuna ci sono queste testimonianze sonore. Comunque la musica è tanta, non c'è solo il rock d'estate, c'è tutta la musica, dalla minimal techno al dreamy pop, dal rock appunto al melodico. E io ho voluto proprio incontrare una regina della musica italiana, Titti Bianchi. Bianchi non è soltanto qui in voce melodiosa e musicale, ma è anche al telefono. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Titti Bianchi, naturalmente, per tener fede alla sua fama di cantante sempre in giro e sempre in tour, è su un pullman. Sì, sul pullman sono andata ad Aosta. Ad Aosta, quindi stasera suona ad Aosta, canta ad Aosta. Stasera canterò ad Aosta, sì. E ieri sera dov'era? Ieri sera eravamo a Vidulis, in Friuli. Cioè, da Friuli alla... Ah, incredibile, ma... Giriamo un po' tutta l'Italia. Quanti chilometri fa Titti Bianchi in un anno? L'ha mai calcolato? Guarda, ne l'ho quantificati, ma sono tanti, tanti, perché tante serate, tanti chilometri. Ma c'è un gruppo di persone che la segue in tutti i suoi concerti? Ma in tutti, tutti, no, perché ad esempio quelli che erano in Friuli difficilmente li avremo stasera d'Aosta, però quando siamo in zona limitrofe Emilia-Lombardia, veramente sì, abbiamo gli affezionati fissi che ci seguono sempre. Chiaramente non sono ragazzine che urlano, però sono persone che si divertono, applaudono, sorridono e cantano insieme a me. Beh, ma naturale, cioè, i ragazzini che urlano spariscono in un giro d'anni. Non... I ragazzini che vanno a me vengono a chiedere l'autografo per i nonni o per le mamme, perciò. Ah, ecco. Ah, Titti Bianchi, vuole spiegare agli ascoltatori di Radio 24 come possiamo definire il suo genere musicale? Guarda, i miei generi musicali, io ho vinto la Riccia nel 68, diciamo, ho sempre fatto musica italiana, poi ho messo su un gruppo e diciamo specialmente per guadagnare, ecco, mi sono andata un po' al liscio, si intende, liscio valzer. Dopo negli anni i gusti sono cambiati, siamo ritornati ancora alla canzone italiana melodica, adesso facciamo un po' di tutto, insomma, non c'è proprio una definizione di un genere, cantiamo le belle canzoni, la bella melodia italiana. Ecco, quindi è una musica molto melodica che ha un seguito incredibile, perché anche se magari appunto i ragazzi così non la conosco, Titti Bianchi è una delle cantanti più note in Italia. È vero, questo è vero, bisogna dirlo. Ma no, ti dirò, guarda, che anche i ragazzi mi conoscono, perché poi come te, sono le nonne, io avevo cantato una canzone, la mia bambina, che addirittura è stata premiata con 2 dischi d'oro, e sì, vengono proprio i ragazzini a chiederla, perché proprio magari l'hanno conosciuta tramite la mamma o il papà o la nonna. Ma durante i concerti di Titti Bianchi le persone ballano? Sì, ballano. Poi facciamo anche magari quel quarto d'ora dove le mandiamo a sedere, andiamo in pista, però cantano con noi oltre che ballare. Ma Titti Bianchi, lei è nota anche nel resto, perché si dice sempre che il genere melodico è molto legato al nord dell'Italia. Sì, al nord dell'Italia, però facciamo anche delle puntate a sud, perché a parte che è una distribuzione discografica che copre tutta l'Italia, perciò riceviamo email, telefonate da tutta Italia praticamente. Ah, quindi comunque è nota in tutta Italia. Anche richieste, però ci diventa un po' difficoltoso, ad esempio, fare una serata a Vidulis e magari domani essere a Palermo, insomma, di questo qua, anche perché facciamo tutto noi. Certo. Guidiamo, cantiamo, balliamo, facciamo tutto noi. Io ho voluto Titti Bianchi perché se si mettono insieme, ho fatto proprio un calcolo, tutti gli spettatori e anche ballerini che vanno a sentirla, moltiplichiamo per molte volte il contenuto di uno stadio quando c'è Vasco Rossi alla fine, se facciamo questo conto. Ma erano arrivati degli striscioni, la Vasco Rossi del liscio. La Vasco Rossi del liscio. Sì, sì, sicuramente mi ha fatto molto piacere, ma siamo lontani. Ma no, comunque è un altro genere, perché noi... Noi non faremo le 30.000 persone, però le 3.000-4.000 le facciamo. Sì, ma lui le fa 30.000 in una volta. Se mettiamo insieme tutte le serate che fa... Quante serate hai fatto Titti Bianchi in un anno? Guardi, ne faremo 300. Allora facciamo i conti. Esatto. Quindi non vai in vacanza, Titti? No, anche perché quando vado in vacanza ci vado con i fans. Ci organizziamo crociere, viaggi, sempre con i fans. È proprio uno zoccolo duro di fans. Allora, buon viaggio e buona serata per stasera. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie, Titti, complimenti a lei. 24, la mia radio, ciao. Arrivederci, ciao, salve. Sono emozionato, ho parlato con Titti Bianchi, ma c'è qualcuno che è stato ancora più emozionato di me, vedo, c'è Marco da Bologna, pronto? Sì, pronto, ciao, no, per la verità emozionato no, perché io sono stato in ascensore con una rockstar, ma l'ho riconosciuto mentre usciva. Ah, e chi era? Chi era? Era Prince. Allora non l'hai visto perché era troppo basso, insomma, diciamolo. Ma diciamo che era, io non sono tanto alto, lui forse era un palmo più basso di me, nonostante avesse 2 tacchi incredibili. Cosa aveva, 2? Dai, due tacchi. Gli stivaletti con 2 tacchi incredibili. Io quando l'ho visto uscire dall'ascensore dentro un hotel famoso di Bologna, sì, io ero lì per un colloquio e mi sono reso conto che era Prince che avrebbe suonato poi, mi sembra, a Modena 2 o 3 sere dopo. Ma questo ti parlo di tanti anni fa, ero un ragazzino. Beh, lui era già famoso comunque. Sì, lui era famosissimo. Ma era da solo? Era da solo in ascensore, sì, era da solo. Sicuro che fosse Prince? No, sicuro, perché me l'ha detto l'altra persona che era in... Secondo me, quando io l'ho guardato con la faccia un po' stranita, questo mi ha guardato e mi ha detto: è Prince. E da cavoli, io l'avevo riconosciuto. Ma tu lo conoscevi comunque? Sì, non l'avevo ricollegato a lui, non sono un fan, capito? Uno non può pensare lì nel centro di Bologna di vedersi Prince, immagina, non so, di trovare appunto Raul Casadei piuttosto che Prince, comunque. Ma no, Bologna è facile incontrare magari proprio Biagio Antonacci piuttosto che... Guccini, ma Prince no. Ma Guccini no, perché se ne sta sugli Appennini, è più facile vedere Lucio Dalla o è più facile vedere Luca Carboni, che sono personaggi che girano molto per la città. Vabbè, tu comunque hai visto Prince. Ti invidiamo molto. E ho visto Vasco Vasco Rossi suonare allo Sporting, che è una balera, nel 1980, penso che eravamo in... forse eravamo in 200 a vederlo. Nell'80 non era ancora così noto, infatti. Prima e l'ultima volta che l'ho visto dal vivo. E poi ha detto basta. Vado solo in ascensore. Grazie Marco. Ciao, grazie a voi. Allora chiamatemi, mi raccomando, raccontatemi anche se avete passato delle vacanze seguendo una rockstar in tutta l'Italia, concerto dopo concerto. Che voglia che avete avuto. Scusarmi, mi sto togliendo un po' così di sfizi dopo gli Onsi, anche i Baustelle. Io ascolterei i Baustelle dalla mattina alla sera, sono così tristi, mi mettono veramente in una situazione di malinconia totale. Poi questa canzone si chiama Groupies, quindi è fatta apposta per il programma di oggi. Il tema, appunto, avete fatto la groupie, avete seguito un gruppo musicale rock in giro, in tournée in Italia, ma anche all'estero. Oppure, come Marco prima, avete visto qualcuno, Prince, in ascensore. Poi vi dirò io chi ho visto dopo, nella seconda parte. Adesso voglio sentire Claudio da Vicenza, cosa mi dice. Claudio. Salve. Salve Claudio. Beh, quasi 30 anni fa, sì, nell'82, io e mio cugino andiamo a Leonigo, provincia di Vicenza, alla pista di Speedway, sì, a vedere gli America con il nostro bel biglietto, e tantissimi ragazzi che arrivavano da tutta Italia senza biglietto iniziano a forzare i cancelli per entrare. Volevano, appunto, si saltava la recinzione, si saltavano i cancelli. Esatto, interviene la cellere di Padova e biglietti o non biglietti ci siamo presi la nostra bella razione. E perché mica la cellere va lì e chiede avete il biglietto? Non chiedeva, e io mi ricordo sempre con mio cugino che gli dicevo alza il biglietto, fai vedere il biglietto, sì così ce ne danno al doppio, ha detto. Perché? Perché eravate stupidi e avevate comperato il biglietto, no? Ecco. Sì, così ce ne danno al doppio. E con la paura di due settimane dopo di andare a vedere il concerto dei Deep Purple in Arena a Verona, sì, e ho detto qua prendiamo un'altra bella dose di botte se ci troviamo a dover affrontare un'altra situazione. Ma no, quindi non siete andati a vedere Deep Purple? Sì. Ma senza siamo andati a vederli. Ma senza siamo pagare il biglietto stavolta? Prego? Dico senza pagare il biglietto questa volta. No, lì in Arena bisognava pagarlo il biglietto, non facevi tanto... Ah, quindi però non avete preso botte? Non abbiamo preso botte, anche se ti dico che uno dei miei gruppi preferiti rock, sì, sono i Jefferson Airplane. I Jefferson Airplane, non si sentiva bene. Airplane. Quindi tu hai una cultura molto matura musicalmente. Beh, mi piace, diciamo che la musica... Però mi piace la musica perché ogni tanto mi ascolto anche Bach in macchina. Sì, ma Bach è una cosa, pensavo mi dicessi, non so, mi ascolto anche Tiziano Ferro. Vabbè, grazie Claudio. Grazie Claudio. A volte però i fan esagerano veramente con i loro idoli. Cos'è questo? Questo, mia cara, è l'oggetto più prezioso che posseggo, non ce n'è un altro al mondo. Qualche anno fa sono andata in pellegrinaggio dietro le quinte di un concerto degli ABBA, sperando di avere un'udienza da Sua Altezza Reale Agnita ABBA. Quando l'ho vista sgattaiolare nel cesso delle signore, naturalmente l'ho seguita. E dopo che ha finito di fare le sue cose, mi sono infilata nel cubicolo e ho scoperto che mi aveva lasciato un regalino che galleggiava nella tazza. Ma che vorresti dire? Che questa è la cacca degli ABBA? Oh, oh, oh, mamma mia, io darien, nei, nei, cagna in te venda. Esagerato, sì, questo fan degli ABBA. Il film era Priscilla, la regina del deserto. Vi ricordate? Portava questa reliquia in una fialetta appesa sempre al collo. Invece la versione degli ABBA che state ascoltando è in svedese, perché alla bella estate non ci facciamo mancare niente. Gli ABBA, fra l'altro, non hanno mai suonato in Italia. Sono nati grazie agli italiani, perché le cantanti da piccole raccontano che imitavano Rita Pavone, pensate. Invece i due maschi dicevano: noi ci ispiriamo a Santa Lucia quando dobbiamo comporre un pezzo. Loro in Italia non sono mai stati allora amati, adesso fingono tutti di amarli. Che tristezza. Osvaldo da Genova. Ciao. Ciao Osvaldo, allora cosa mi racconti? Niente, io ti racconto una cosa che è incredibile. Mi sono trovato a Sabato Circolari, un programma televisivo in bianco e nero all'epoca, io ero poco meno di 18 anni, e mi sono trovato davanti a dover tradurre quello che diceva niente poco di meno che Luigi Tenco. Ah, ma in che lingua? Dall'italiano allo spagnolo, perché io sono figlio di italiano. Ma invece sei di dove? Sono nato là in Argentina. Ah, in Argentina, in Argentina. Sì. E niente, io ve lo dico così di chiaro e tondo, io quando sono rimasto, che me lo sono guardato davanti, mi impapinavo e non riuscivo a tradurre niente, perché ero, a parte che ero folgorato da quel suo famoso sguardo, ma poi io ero anche segretamente innamorato di Litvinenko. Addirittura, questo è un coming out, sì, sì. In diretta. No, io avevo una passione in famiglia per Litvinenko. Io vedevo Litvinenko e sbavavo, insomma. Morale della questione è che non sono riuscito quasi a iniziare a tradurre, se non che qualcuno mi ha dato una gomitata come dicendo: oh, ma allora eri tu che parlavi italiano. Ah, ma lei sta avendo una visione, quindi. Fatta, però non mi sono sorpreso per niente di sapere che poi era morto. Perché? Perché effettivamente aveva qualcosa di tremendo. Guarda, era qualcosa di tremendo. Ah, proprio sentivi questa corrente che ti trasmetteva? Niente, che questo è il piccolo aneddoto. No, ma guarda, ci ha fatto piacere comunque ascoltarlo, grazie, perché siamo anche usciti un po' dall'ambito appunto rockstar, abbiamo sentito Prince, Vasco Rossi, poi dopo ne sentiremo altri, ma è il 1980, voglio parlarvi del 1980 e farvi sentire la Hit Parade del 1980. Hit Parade! Numero 10, Monkey Chop, Denai. Numero 9, Galactica, Rockets. Numero 8, L'Ape Maia, Katia Svizzero. Vola, vola, vola, vola, vola, l'Ape Maia. Gialla e nera, nera e gialla, tanto Gaia. Vola, sola. Numero 7, Canterò per te, Pu. Numero 6, Cobra, Donatella Rettore. Numero 5, Olympic Games, Miguel Bosé. Numero 4, Il Tempo Se Ne Va, Adriano Celentano. Numero 3, Stella Stai, Umberto Tozzi. Numero 2, Luna, Gianni Togni. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Numero 1, Non so che darei, Alan Sorrenti. Vabbè, tanto la conosciamo, non ve la faccio neanche sentire più, però pensate com'era strano il mondo e come strano il mondo. Mentre la Hit Parade presentava questi brani, gli italiani impazzivano nel 1980 per Bob Marley. Per la prima volta Marley in Italia, a San Siro, per la prima volta un concerto a San Siro, per la prima volta un concerto pacifico dopo i grandi anni delle lotte, dell'autoriduzione e così via. Fu veramente una notte pari indimenticabile, quella del 27 giugno 1980, quando appunto Bob Marley cantò a Milano. Ma pare che ci sia stato anche qualcuno che ha avuto un incontro indimenticabile. Salvatore da Roma, pronto? Pronto. Avanti, racconta al mondo quello che ti è successo. No, beh, era una battuta che avevo fatto perché è vera, però. Un giorno stavamo in centro a Roma, stavamo passeggiando e insomma passa una bellissima, stupenda. Io naturalmente non conosco nessuno. Allora la guardo e i miei amici mi dicono che era Samantha De Grenè. Ah. Passa, dopo un po' passa un'altra, stessa storia. Io guardo, mi giro, insomma, però naturalmente, ripeto, io non conosco proprio. Tu vivi in un altro pianeta, sì. Non sono molto visionista, non seguo molto televisioni, gossip, eccetera. Però poi facciamo qualche passo e ho incontrato Cristina D'Avena. Sono stato io a dire agli amici che è Cristina D'Avena. Ma l'hai fermata? L'hai fermata? No, non ho avuto il coraggio. Ma no, lei guarda, lei è molto simpatica. Io ci ho anche lavorato con Cristina D'Avena. No, no, ma poi non avevo. Cioè, ancora oggi mi prendono in giro che ho riconosciuto Cristina D'Avena e non ho riconosciuto. Ma scusa, se te lo fa. Cioè, era vestita da Puffetta oppure era vestita in borghese? No, era vestita da Cristina D'Avena. Ah, era vestita da Cristina D'Avena, praticamente. E da quel giorno, figliolo, la tua vita è cambiata? Beh, sì. Beh, certo. Ho avuto una crisi mistica. Grazie a Salvatore, grazie. Grazie a voi, ciao. Ciao. Allora, Anna da Milano, dobbiamo andare veloci perché vedo che ci sono un sacco di persone che hanno incontrato divi del rock. Anna. Ciao a tutti. Ciao. È una cosa che mi è successa circa 25 anni fa. Stavo tornando da una vacanza in Grecia, dovevo prendere un aereo la mattina molto presto nell'isola di Kos. Sì. E a un certo punto abbiamo visto tutto, era un aeroporto piccolissimo, era presto all'epoca, non è che ci fosse tantissima gente così presto di mattina. E chi c'era? E abbiamo visto arrivare un sacco di limousine, di furgoni con i vetri azzurrati e c'era James Brown. James Brown? Ma con ti rendi conto della fortuna? Tu all'aeroporto di Kos hai incontrato James Brown. Aspetta, il punto non è questo. E cos'è? Il punto è che James Brown e tutta la sua il circo che si portava dietro si sono presi tutti i posti sull'aereo della Olympic. Sì. Noi siamo rimasti a terra, abbiamo perso la coincidenza da per Milano. Insomma, è stata la roba veramente. Ma tu non hai più comprato un disco di James Brown in vita tua, poi? No, cioè. Beh, io sinceramente non avevo mai comprato un disco di James Brown. Dopo quel momento, però, ancora meno proprio. No, però diciamo, nell'insieme era abbastanza surreale. Tutti questi negroni con i capelli tinti, tutte queste bottiglie di Barbon e tutta questa gente che si prendeva i nostri posti sull'aereo, non c'era niente da fare, quelli dell'Olimpico che scuotevano la testa e questi che si imbarcavano al posto nostro. Così, vabbè, comunque è una bella esperienza anche questa qui. Guarda, ti invidio molto. Poi ti racconterò una cosa. Resta in ascolto che ti racconto una cosa. C'è Benedetto da Frosinone adesso. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Benedetto. Salve. E niente, io quando avevo 10 anni ero all'aeroporto di New York, tornavo in Italia con i miei genitori e il mio cugino mi dice: guarda lì, e c'era quest'uomo con la barba nera con la chitarra in mano ed era John Lennon. Pensa, fino a qualche mese fa incontrare uno con la barba nera in aeroporto uno avrebbe già avuto paura, invece tu avevi detto era John Lennon. Era John Lennon, perlomeno questo è quello che mio cugino mi disse: guarda, vedete, quello è John Lennon, e stava lì nell'aeroporto che camminava da solo con questa chitarra nel baule, proprio per la chitarra. Certo che c'è questa immagine indelebile. Certo che se avessi incontrato io uno con la barba e la chitarra avrei pensato a Giobbe Covatta, invece no, era John Lennon a quanto pare. Era John Lennon, sì. Ma c'era gente che lo fermava? No, non c'era nessuno, in effetti era un po' curioso, lo dicevo: guarda che strano, poi essendo a New York, quindi la sua città, quindi... Ma sai, di solito fanno apposta, perché se la tirano non voglio, cioè se proprio vuole deve essere John Lennon a fermare me, loro pensano, perché... è gente un po' così. Comunque adesso che mi avete raccontato, allora, una ha incontrato l'aeroporto di Kos James Brown, lui ha incontrato a New York John Lennon. Io una volta ero a Brindisi e all'aeroporto di Brindisi ho visto Albano, giuro, è vero, ed era tristissimo perché Albano cercava di fermare tutti per parlare e nessuno voleva parlare con lui. Alla fine si è fermato con un barista che faceva finta di ascoltarlo. È stato un momento tra i più tristi della mia vita. La bella estate. Strade piene, la folla intorno a me. Eh sì, era veramente una città vuota, quella del 16 agosto 1980. E torniamo ancora nell'80. Io tornavo da Varese all'alba praticamente e verso una piazza, non vi so neanche dire quale, di Milano, se non siete di Milano non importa, città completamente deserta, 16 agosto, ore 6 del mattino, vedo questa signora imponente con una lunga treccia e degli occhiali grossi e oscurati che camminava lentamente. Io sono convinto fosse Mina. Forse sì, forse no. Poi ho anche scritto al suo sito dicendo: ma potrebbe essere che... E mi hanno detto forse. Io sono stato contento di questa risposta. Un sì mi avrebbe deluso, un no mi avrebbe deluso, un forse mi lascia nella, così, in questo limbo. Forse l'ho vista, forse no. E voi che avete visto? Ma davvero, e non come me che penso di aver visto. 800 24 00 24. Avete incontrato delle rockstar? Siete stati a un concerto che vi ha segnati? Avete fatto voi stessi un concerto perché siete una rockstar e state ascoltando La Bella Estate? Non lo so, fate come volete, ma l'importante è che mi chiamate. Ci sono poi delle star che durano l'espace d'un matin, come si dice in Francia, come dicono quelli colti, tipo quella, come si chiama, Germanotta? Sì, Germanotta. Questa confusione è perché Lady Gaga era a Milano davanti a un negozio, stava facendo shopping e c'erano tutti questi esaltati che gridavano. Oggi non so se griderebbero ancora, sta passando dei brutti momenti Lady Gaga, poveraccia. Come vedete, durano sempre meno. Per fortuna ci sono poi quelli che durano tanto, come uno di cui parleremo adesso, Mohammed da Ravenna. Sì. Ciao Mohammed. Ciao, buongiorno. Buongiorno, chi hai incontrato tu? Io ho incontrato Gianni Morandi, no? Sì, Gianni Morandi. Sì, Gianni Morandi, ero nel 2007. Sì. Ero con il mio collega, io andavo a Termoli, io sono un autista, sono della Costa d'Avorio originario. Ah, momento, fermi tutti. Tu sei della Costa d'Avorio e conosci, sì, Gianni Morandi? Sì, l'ho l'ho incontrato perché era alla una di notte. E cosa io faceva? Dove era? Lui era all'area del servizio dopo Parma. Sì. Allora, noi ci siamo fermati per prendere un caffè, no? Sì. Allora, l'ho visto seduto e poi ero talmente emozionato, mio amico, lui ha detto: Mohamed, guarda, quello è Gianni Morandi. E io non ci credevo, mi sono avvicinato. Ma tu lo conoscevi già, conoscevi le canzoni? Sì, io sì, l'ho già visto alla TV. Ah, in Costa d'Avorio tutti cantano le canzoni, sì, di Morandi. Infatti, ma io sono qua in Italia da tanti anni. Ah, no? Da tanti anni, beh, si sente anche da come parli. Sì, e poi mi sono avvicinato a lui, lui talmente gentile, ha visto che noi siamo emozionati, allora lui ci ha teso la mano e ci ha salutato, abbiamo fatto due chiacchiere. Allora io sono rimasto contento per tutto il mese. Hai capito? Ho fatto anche il viaggio con una grande gioia. Eh beh, immagino, è stato un bel incontro per te. Comunque mi hanno detto anche altre persone che è veramente una persona gentilissima, Morandi, sempre molto disponibile. Gentilissimo. No, no, ci credo, Mohamed, ci credo, guarda, ci credo. Grazie tante, Mohamed. Allora, vogliamo sentire un altro. Prima della nostra telefonata con un grande fan di Bruce Springsteen, ve lo anticipo subito, voglio sentire Antonio da Salerno. Pronto, Antonio? Pronto, sì, pronto. Antonio? Sì. Allora, dimmi, cosa ti è successo? Niente, siccome avete fatto sentire Gianni Togni, a me è vero. Nel 76, credo, sì? Ero con la mia ragazzina, perché avevo 26 anni, e facevamo questo viaggio verso le Eolie, e a un certo punto in treno ho incontrato quest'altra coppietta, ed era Gianni Togni con la sua ragazzina, con tanto di chitarra, e abbiamo fatto tutta la vacanza fino praticamente. Noi siamo andati a Lipari, poi sono andati a Stromboli, ci siamo ritrovati, poi siamo risaliti a Roma, fine vacanza, sono addirittura andato, penso, a casa sua o qualcosa del genere. Ma era il 76, quindi non era ancora famoso, diciamo. Non era ancora famoso, so che mi raccontava che aveva il fratello che lavorava in una rivista di musica, non so se si chiamasse 2000, non so cosa, si chiamavano queste riviste... Ah, ciao 2001! 2001, so, una rivista musicale. Sì, una rivista di tanti anni fa. Pian pianino ho sentito parlare di lui e che è diventato famoso, poi con quella canzone lì che avete appena fatto. Esatto, sentire, l'abbiamo fatta sentire. Beh, questa è un'esperienza. Mentre sì. Albano me lo sono trovato a Istanbul, sempre negli anni 80, non mi chiedere proprio l'anno preciso, che usciva dalla Casbah lì dove sono tutti i negozi eccetera, con questo fotografo che lo continuava a fotografare appena ogni passo che faceva. Ah, che bello, però lì in quel caso non fermava le persone per parlare, vabbè, forse perché parlava turco, era un po' così zoppicante in turco. Grazie ad Antonio, è stata una bellissima esperienza anche la sua, fare le vacanze con Gianni Togni, uno pagherebbe per farlo. Allora, adesso è il momento di Bruce Springsteen. C'è un fan di Bruce Springsteen che si chiama Corrado Gambi, che ho al telefono. Corrado, ciao. Ciao. Allora, tu sei un grande fan di Bruce Springsteen. Sono un fan. Allora ti metto alla prova. Ascolta questo pezzettino, ascolta. Ecco, allora mi devi dire nell'ordine come si chiama la canzone, dove è stata registrata e vabbè, come si chiama il cantante. Badlands, adesso dove è stata registrata, sai? È un fan, deve sapere tutto, un fan deve sapere tutto. Dove non te lo so dire. Vabbè, comunque era Barcellona, era una registrazione di un concerto a Barcellona. Ma Barcellona tu... di quando? Ecco, adesso mi prendo in castagna perché non lo so. Ma non sono io. Se c'ero o non c'ero. Non sono io il fan. Quanti concerti di Springsteen hai visto? L'ho visto 81 volte. 81 volte, ma è un record. Sì. No, nel senso che cioè, ci sono tante altre persone in giro. Sì, per vabbè, Springsteen se li sarà visti tutti sicuramente, ma per motivi naturalmente personali. Ma siccome Springsteen è un cantante noto in tutto il mondo, tu l'avrai seguito ovunque, anche all'estero, quindi. Io sono stato in giro per l'Europa tante volte e sono stato anche negli Stati Uniti un paio di volte. Ma in tutti questi 81 concerti c'è stato uno che ti è piaciuto di più, uno che ti è piaciuto di meno? O sono sempre sullo stesso livello? No, ci sono sicuramente dei concerti che mi sono piaciuti di più, ci sono dei concerti storici per un fan italiano, sicuramente il 21 giugno dell'85 a Milano come prima volta è stato sicuramente un concerto memorabile, per me personalmente sono stati memorabili anche la prima volta che l'ho visto negli Stati Uniti a Filadelfia. Ah, per cui, insomma, proprio Filadelfia, poi, cioè neanche farlo apposta. Allo Spectrum. che oggi non esiste più. Senti, ma come fate? Cioè, i fan che arrivano quando ci sono 30, 40, 50, 100.000 spettatori, quelli che sono sotto il palco, come fanno ad arrivare? Arrivano lì 3 giorni prima, pagano un biglietto maggiorato, come fanno? No, ma sai, questo nel tempo è una pratica che è cambiata, nel senso prima del 2002-2003 non c'erano zone della platea dedicate comunque a chi arrivava prima, cioè tu ti mettevi in fila, stavi lì e poi aspettavi quando si entrava una sorta di corsa verso il palco. Poi da quella data più o meno è stata istituita anche, credo per ragioni di sicurezza come in altri concerti, un'area che si chiama pit subito sotto il palco. E tu accedi chiaramente se arrivi molto presto, e tra i fan che arrivano molto presto c'è stata una sorta di autoregolamentazione che ti permette di restare lì. Certo. Cioè, adesso ti faccio sentire un'altra cosa, Corrado, ascolta questo pezzettino che ti faccio sentire. Questo non arriva da Međugorje, questo pezzo, ma è una ragazza che era al concerto di Madonna a Udine e ha cominciato ad andare in escandescenze perché Madonna era scesa dal palco e si era avvicinata a lei. Queste cose succedevano anche a te? Urlavi Bruce? No. Ah no, oddio, più calmo. Oddio, chiaramente in quei momenti sei all'apice della tua felicità se questo succede. Ma guarda che ti posso dire che il pubblico di Springsteen, il pubblico che comunque ha già una certa età, ahimè, sì. cerca di non, cioè non ha queste manifestazioni di, così infantili, diciamo. Di assoluta appunto perdita di ogni controllo. Sì. Almeno a me piace vedere come questo non succeda, certo. come sia comunque siete più controllati, ma un modo di vivere un concerto che è comunque il seguire una tua passione, seguire certo. un qualcosa che ti accompagna da Corrado, quasi tutta la vita. Corrado, per concludere, dimmi, ma tu l'hai mai incontrato da vicino Springsteen? Gli hai mai parlato? Gli hai mai detto ho visto 81 concerti tuoi? No, sì, cioè l'ho visto, ho avuto un paio di incontri ravvicinati, se così si può dire, uno fuori dal suo albergo a Madrid durante il tour di Devil's and Dust, quando appunto faceva il tour in solo, sì. E l'altro fuori dallo stadio di Vienna nel 2009, quando ci siamo mangiati una fetta di pizza insieme. A me questa è una cosa da mettere sui biglietti da visita, ho mangiato la pizza con Bruce Springsteen. Cioè, ti assicuro, non è questo il modo in cui... Vabbè, abbiamo capito, comunque. Tu sei un fan molto molto contenuto, godi internamente. No, anche esternamente, ma non di queste cose. Vabbè, grazie allora Corrado, grazie. Prego, tante. Grazie. Ciao, grazie. Allora, io una volta ho visto davanti a un albergo George Michael, l'ho aspettato 5 minuti perché uscisse, lui ha salutato con un grande gesto della mano e è andato via, è stata una visione così, sono un grande fan di George Michael, ma non ditelo in giro. Allora, subito una raffica di ascoltatori, Filippo da Trento. Sì, salve. Ciao, allora rapidamente cosa ti è successo? Ma niente, io come tanti giovani sono andato a Londra per un periodo, sì? e lavoravo in un albergo abbastanza rinomato. Una mattina finivo il turno di notte, dai fai quest'ultimo ordine, e io vabbè, anche abbastanza riluttante, salgo su ai piani, entro in stanza e c'è Bono completamente fuori di testa. Ah, Bono degli U2? Sì, sì. E sta facendo tipo, sta giocando a golf sul letto matrimoniale con le sorelle Kors, le altre irlandesi che erano in città, praticamente hanno fatto una riunione di irlandesi e si vede che la notte... Completamente ubriachi. Cosa ha bevuto? Un succo di frutta? Come era la colazione? No, era una bottiglia di champagne, adesso non ricordo quale fosse... però era pronto insomma per fare un bel lungo, un bel dritto, ecco. Beh, certo, poi esce e va lì a parlare dei problemi del mondo. Io Bono non lo sopporto, ma questo resta tra di noi, naturalmente non ditelo in giro. Grazie Filippo. Allora Mauro da Firenze. Mauro da Firenze, pronto? Sì, pronto? Ciao, pronto? Mauro. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, chi hai visto? Io sono uno dei pochi privilegiati che ha visto i Beatles dal vivo. Ah, ma a Milano? Ah no, a Genova. A Genova, a Genova. A Genova, al Palazzetto dello Sport, eravamo un gruppo di amici e ricordo la cosa così simpatica, a parte all'epoca, adesso è molto diverso da come era allora, che c'erano le overture, no? C'erano i complessi, c'erano Beppino Di Capri, sì, sì, c'erano Guidone, eh? Poi arrivarono loro tutti in fila indiana. Ma che anno era? Che anno era? Mi sembra il 64. Ah, 64 mi sembra quindi. Il 64 se non sbaglio. O il 65, non mi ricordo. Comunque quel periodo. Andai a fare il militare nel 66, quindi mi sembra fosse l'anno prima. Ah. E quindi la cosa curiosa è che dal nostro gruppo, siccome volevamo scandire il nome di qualcuno, sì. Però insomma un bisillabo, Ringo, venne fuori Ringo, Ringo. Insomma, e poi tutti in coro, tutto il palazzetto Ringo, poi è divertente sul giorno. E sarà stata l'unica volta che è successo, il povero Ringo Starr era il più sfigato dei quattro. E come si fa? John, era un po'. Ma poi, tu non lo sai, Paul e John l'hanno picchiato dopo. Grazie a Mauro. Ah, sentiamo Angelo da Pescara, pronto? Buonasera. Angelo, cosa ti è successo? Allora, sono stato in macchina con Gianni Nannini, sì? Che stava in una cantina di vini per una serata di beneficenza, io sono un fotografo, ah? E stavo lì per riprendere questa serata e a un certo punto il padrone del ristorante mi dice ok, e il padrone della cantina mi dice andiamo al ristorante tutti insieme, lei non, giustamente non sapeva il posto, ma dai Angelo vai in macchina con lei così, e poi siamo andati a Chieti. In macchina con Nannini? Coronandini, perché lei aspettava un'amica, mi sembra, una cosa del genere. Praticamente siamo stati tutta la serata, un'oretta insieme. Dimmi una cosa, devi dirci una cosa adesso, Angelo. Ma la Nannini, quando è in auto, fuma il sigaro? No, no. Nannini, l'unica cosa che ha fatto nell'attesa davanti alla stazione di Chieti Scalo, si è passato il filo interdentale nei denti. Ah, fantastico. Barbara Ronchi della Rocca sta già svenendo, una vera signora. Grazie, Angelo. Fantastica. Grazie, ciao. Oh, le avventure qua non finirebbero mai, c'è un sacco di gente che vorrebbe chiamare per raccontarci, però questa qua del filo interdentale di Gianna Nannini, gli sarà rimasta attaccata anche la dentiera, non lo so. Torniamo domani parliamo di un tema caldissimo. Che fine ha fatto Michael Kenta? So che non dormite la notte perché ve lo chiedete. Domani parliamo di VIP scomparsi, di località per VIP scomparse. Avremo anche un ospite in studio. Grazie a Viola Bottonis, metto la S anche a lei oggi, e a Mauro De Angeli, gli tolgo la S, che non ha neanche la stazione della metropolitana. A domani.